fra 2 giorni abbiamo questa la grande solennità dell'Assunzione di Maria, e voi avrete la possibilità in questi prossimi giorni, anche il giorno stesso, il 15 agosto, di pregare su questo mistero della vita di Maria e di Gesù, che diciamo, possiamo dire, anche il mistero della vita della Chiesa, no? Cioè della storia dell'umanità, che noi festeggiamo ogni anno il 15 di agosto, e qui avremo e avrete tante possibilità di riflettere, di meditare e anche di stare vicino alla Madonna e di festeggiarla in questo giorno, ecco, in tanti modi, sotto tanti aspetti. Potrete, insomma, meditare questa realtà, no? Che ci è stata rivelata, anche se appunto nella Sacra Scrittura il testo più esplicito è quello dell'Apocalisse, e appare comunque un po' misterioso, anche se poi lungo i secoli, ecco, la Chiesa ha sempre più esplicitato questa fede fino a dichiarare la verità. Pio XII, no? Il dogma dell'assunzione al cielo di Maria in corpo e anima, e un segno, scrive l'Apocalisse al capitolo XII, un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Spesso nelle immagini di Maria assunta, questi ecco, appare proprio così, no? E dopo invece cambia l'immagine, no? Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, sulle teste 7 diademi, e la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Ecco, è una... essa è un'immagine di questa grande lotta, no? Che c'è tra il demonio e Dio, tra, ecco, Lucifero e i suoi angeli, e invece Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, il suo Figlio incarnato, e la donna che lo ha portato al mondo. E essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. Come vedete, le immagini della nascita si collegano immediatamente con quelli dell'ascensione, cioè c'è tutta la storia di Gesù in queste poche parole. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Quindi da un lato questa donna è simbolo della Chiesa, poi più tardi i padri della Chiesa hanno visto in lei la Beata Vergine Maria. Infatti questo brano si legge proprio il giorno dell'Assunta. Scoppiò quindi una guerra nel cielo, Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago, il drago combatteva insieme ai suoi angeli ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udii una voce potente del cielo, nel cielo, che diceva. Questo brano dell'Apocalisse, in realtà, quando lo si legge nella festa dell'Assunta, è un po' ritagliato, no? Quindi però noi lo leggiamo tutto quanto, perché penso che aiuti a vedere, ecco, l'insieme di tutte queste cose, con un linguaggio di tutta, diciamo così, un po' per una specie di sintesi della storia della salvezza, di tutta quanta la storia della salvezza, e anche della storia di Gesù, della storia di Maria, è così, no? Della storia della Chiesa. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. È molto, lo sappiamo, perché a volte lo chiamiamo così, no? Questo nemico della nostra pace, della nostra salvezza, della nostra insomma vita cristiana, lo chiamiamo l'accusatore dei nostri fratelli. È significativo che sia chiamato così nell'Apocalisse, e qualcosa che lo definisce, no? Così come viene chiamato come omicida fin dal principio, oppure appunto divisore, e lo possiamo pensare che quando, ecco, ci viene una tentazione, no, di accusare i nostri fratelli anche solo dentro di noi, è qualcosa che ci può avvicinare a questa figura negativa del nemico di Dio, no? Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello. E pensate all'Eucaristia, no? Con cui noi veniamo nutriti del sangue dell'agnello, no? E alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino a morire. C'è un riferimento ai martiri. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi terra e mare, perché il diavolo è sceso sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la donna che aveva partorito il figlio maschio. Qui furono date, dobbiamo sempre pensare che è un'immagine della Chiesa e poi anche immagine di Maria, questa donna, ma furono date alla donna le due ali della grande aquila perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove viene nutrita per un tempo, due tempi, la metà di un tempo, lontano dal serpente. E allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna per farla travolgere dalle sue acque, ma la terra venne in soccorso alla donna, aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù, e si appostò sulla spiaggia del mare. E così via. Evidentemente il linguaggio dell'Apocalisse è un linguaggio per particolare. Però noi intravediamo attraverso queste immagini, ecco, quello che è la vita, anche la discendenza di, no, il resto della sua discendenza, di questa donna, cioè i cristiani, i figli di Dio, e il demonio che se la piglia con loro, no? O con noi. Però tutto questo comincia, tutta questa visione, come un segno grandioso: apparve nel cielo una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. E torniamo a questa visione nella quale pensiamo che ci possa essere un po' dell'esperienza che l'estensore dell'Apocalisse, che noi pensiamo insieme con la Chiesa che sia San Giovanni, porta della sua esperienza dell'assunzione in cielo di Maria. E ovunque viene raffigurata questa assunzione, viene raccontato come Maria venga assunta in cielo vicino agli apostoli, cioè gli apostoli vedono questa sua salire in cielo che riproduce in lei gli aspetti della morte e risurrezione e ascensione in cielo di Gesù, solo che lei viene portata in cielo da Gesù, mentre Gesù e lui è Dio, è il figlio di Dio, quindi è lui stesso che ascende verso il cielo, cioè che si distacca dalla nostra realtà, perlomeno come visibilità, anche se ci ha promesso di stare con noi sempre, ogni giorno, per andare a stare nel cuore della Trinità con la sua umanità. Invece Maria viene chiamata da lui, no? Ci possiamo immaginare che Maria, come è anche una tradizione della Chiesa, che si addormenta, no? La dormizione di Maria. Vi ricordate per esempio quella bella scultura che c'è vicino alla cripta, no? Di Santa Maria della Pace, che riproduce una un'immagine che il giovane José María Escrivá, insieme a suo padre, andava così a guardare, a venerare la domenica quando andavano a messa nella cattedrale di Barbastro, che pare che lì ci sia un'immagine di questo tipo. Quindi c'è anche una tradizione iconografica della Madonna che si addormenta, cioè del momento prima dell'assunzione in cielo. Su questo aspetto la Chiesa non ha mai definito se è morta davvero oppure addirittura gli è stata risparmiata questo passaggio, la cosa più normale, proprio perché in questo anche lei vive lo stesso percorso di Gesù, è che abbia avuto una morte dolcissima, cioè che in lei sia potuto accadere qualcosa di molto simile a quello che è accaduto alla figlia di Gairo, no? Quando vi ricordate Gesù che va, o perlomeno è quello che accade in quel momento, e forse è anche una previsione, no, di quello che potrà accadere a Maria quando Gesù dice non è morta ma dorme, no? In realtà un po' era morta, insomma, ecco, era come dire che era una morte in attesa di una risurrezione. E la prende per mano Gesù, quella bambina, quella dodicenne, e così lei si risolleva. E tu Gesù con Maria hai fatto qualcosa di questo tipo, non sei arrivato a prenderla per mano, probabilmente i tuoi non ti hanno visto, no? Però possiamo pensare che tu, oppure che sei giunto e con un bacio, diciamo così, l'hai presa per portartela con te in cielo. E questo, il fatto che Maria sia anche lei nel cuore della Trinità, in questo noi diciamo cielo perché è un'immagine per noi del luogo dove sta Dio, no? Però sappiamo che poi Dio sta in cielo, in terra, in ogni luogo. L'immagine del luogo, ecco, della trascendenza di Dio rispetto alla realtà creata, che noi immaginiamo, ecco, la terra è immagine della realtà creata, il cielo è l'immagine del luogo dove sta Dio. E anche proprio per questo, perché abbiamo questa immagine, Gesù ha fatto vedere questo innalzarsi, no? Questo elevarsi da terra, come dire, mi stacco dalla vostra realtà creata, mi stacco dal, cioè cambia un po' il mio rapporto con voi, nel senso che non mi vedrete, no? E poi tornerò, e, però sono con voi tutti i giorni, pensiamo all'Eucaristia, pensiamo alla sua presenza in mezzo a noi. E così Maria, no? Così Maria viene, c'è questa immagine probabilmente davanti ai discepoli di una innalzarsi, anche per dire questo corpo no, non avete bisogno di seppellirlo, no? Non ha bisogno di un sepolcro, il corpo non è più tra voi, ma è vivo, è risorto. Quindi Maria è dopo la risurrezione di Gesù è, per quello che non possiamo sapere, la prima di cui abbiamo la certezza, no? Che sta in cielo in corpo, e poi probabilmente anche altri, no? San Giuseppe, no? Ci sono molti che pensano che anche Giuseppe sia con Maria, no? Con il suo corpo, però queste sono appunto opinioni belle. È bello per noi meditare sul fatto che questo corpo bellissimo di Maria, che ha vissuto una vita lunga, abbastanza lunga, non sappiamo quanti anni è rimasta sulla terra dopo l'ascensione di Gesù in cielo, pensiamo alcuni anni, non so se alcune di queste espressioni dell'Apocalisse si riferiscono al tempo in cui Maria è rimasta lì, probabilmente no. Quindi alcuni anni in cui Maria è stata con Giovanni, è stata punto di riferimento degli altri apostoli. C'è una tradizione che dice, chi va in Terra Santa lo sa, che in una Pasqua Maria viene con Giovanni a Gerusalemme, e questo sarebbe avvenuto tutto quanto, no? la sua morte e la sua assunzione nell'Orto degli Ulivi. Una tradizione dice così. Comunque, Maria, il suo corpo splendido di madre, di sposa e corpo vergine, è portato da Gesù in cielo tutto quanto, tutta la sua, il suo corpo, tutta la sua anima, cioè tutta la sua umanità. E quindi Maria ci sta vicino adesso con tutta la sua umanità, con il suo corpo e la sua anima, cioè tutta la sua, questa donna che ha dato la vita al figlio di Dio, sta nella Trinità di Dio, così com'era, però risorta, quindi un corpo trasfigurato. E forse proprio per quello possiamo pensare che lei può essere davvero madre di ciascuno di noi, perché appunto sulla terra ha dovuto essere madre solo di Gesù, figlio unigenito del padre, figlio unigenito di Maria. Poi la sua maternità, ecco, quando ha cominciato a diventare più grande attraverso la conoscenza di tutti gli apostoli e di tutte le persone che Gesù avvicinava, ma nel momento in cui lei, il suo corpo di donna, di sposa e di madre e di vergine è in cielo, ecco, questo corpo è come disponibile ad essere per noi madre. Il suo grembo a custodirci, il suo seno a nutrirci. Ciascuno di noi, Maria è madre di ciascuno in modo personale, e poi di tutti insieme è madre di tutta la famiglia. E il senso della sua, e il significato, no, di questo suo corpo è proprio, cioè la sua verginità il significato della custodia, no? Pensate che lei ha custodito il figlio di Dio nel suo grembo per 9 mesi e poi lo ha custodito lungo tutta la vita. E il suo seno ha il significato dell'accoglienza e del nutrimento. E allora questo è il significato bello e profondo anche di quel punto che noi conosciamo di cammino, no? Che, in cui il nostro padre ci invita ad accorgerci che c'è la tenerezza del suo grembo, no? Di Meyer, e adesso non mi ricordo letteralmente, insomma, e a ricevere le sue carezze. Veramente il fatto che Maria sia assunta in cielo con il suo corpo ci aiuta a pensare che veramente, veramente ci può accarezzare con le sue mani, ci può abbracciare, no? Con le sue braccia, ci può accogliere nel suo grembo come un figlio. Noi possiamo stare, pensate all'immagine di Maria, la pietà, no? Tutte queste belle raffigurazioni di Maria che accoglie il figlio grande nel suo grembo come lo accoglieva da bambino, però ecco, pensiamo alle più note, quella, la pietà, le varie pietà di Michelangelo, ma e tante altre. Noi possiamo, per esempio, quando ci sentiamo feriti da tante situazioni della vita, dalle sofferenze, quando noi partecipiamo della croce di Gesù, allora poi intanto c'è Maria lì sotto, no? Se noi siamo sulla croce con Gesù, come in fondo ogni cristiano è chiamato ad essere per una parte della sua vita, per alcuni aspetti della sua esistenza, noi sappiamo che Maria è lì ai nostri piedi, che con il suo sguardo ci incoraggia, è lungo la via della croce, no? E poi dopo quando ecco, avviene la deposizione, noi siamo accolti da lei e le ferite vengono curate, cioè e allo stesso tempo questa assunzione di Maria, cioè questo essere portata con il suo corpo nel cuore della Trinità, oltre a fare lode di tutta la creazione di Dio, cioè, di tutta la bellezza del suo essere donna, della grandiosità di questa realtà che Dio stesso ha inventato, che è appunto il fatto che ciascuno di noi viene al mondo attraverso, nel nostro caso, l'amore dei nostri genitori e il grembo di una madre, e tutto questo è glorificato in Dio, e allo stesso tempo ovviamente questo significa da parte di Maria nei nostri confronti, come di ogni buona madre, ma a maggior ragione con tutta la sua santità e la sua pienezza di grazia, significa che lei è anche attenta a tutta la nostra dimensione spirituale e corporale, cioè tutta la nostra dimensione umana, tutto. Questo noi ritroviamo, riconosciamo l'insegnamento che nostro padre ci dava del fatto che ci voleva bene come le madri, no? Come i padri e le madri insieme, con un cuore di padre e di madre, quindi con la nostra anima e il nostro corpo allo stesso tempo, quindi questo ci aiuta a comprendere l'attenzione che Maya ha nei nostri confronti e a cercare di vivere noi stessi questa maternità, possiamo dire così, nei suoi confronti. scusate, nei confronti di tutti quanti, no? I nostri fratelli, le nostre sorelle. E anche, se volete, ci ricordiamo in conclusione di questa meditazione che Gesù ha detto a tutti noi che stiamo lì, che ascoltiamo la sua parola, ha detto quando arrivava sua madre, no? C'è tua madre alla porta, ti cerca. Dice, no, ma voi che ascoltate la mia parola siete mio fratello, mia sorella, mia madre, no? Quindi è audacissimo questo paragone che Gesù fa, è fortissimo, ma noi dobbiamo anche dargli retta, non solo il termine di sapere che in qualche modo possiamo contribuire al fatto che lui nasca, no? Nel cuore di un'altra persona, che venga generato, no? Attraverso la grazia, quindi anche noi collaboriamo, ma anche che noi possiamo avere nei confronti di Gesù, pensate a tutta la nostra vita di preghiera, un atteggiamento da madre. Può essere per noi il figlio, in fondo a Natale tutti cantiamo e diciamo e preghiamo, diciamo un figlio ci è nato, un figlio ci è dato. Effettivamente Gesù si presenta a noi come figlio, quindi anche forse, ecco, le donne possono con più capacità, con più insomma comprendere questa verità che Gesù ci rivela e anche viverla, no? Cioè avere un rapporto con lui anche sì, da figlia, da sorella, ma anche da madre, no? Ciascuno di voi è, che ascolta la mia parola, le mette in pratica, mio fratello, mia sorella e mia madre. Per cui Maria, aiutaci a vivere questa festa della tua assunzione contemplando che tu sei risorta, che tu sei in cielo con il tuo corpo e la tua anima, con tutta la tua umanità, e aiutaci a cercare il tuo grembo e sapere che ci custodisci, che ci nutri e che ci aiuti a vivere un po', no? Anche noi la tua maternità.